la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori in questo lunedì 2 giugno. 2 giugno naturalmente, ve lo devo appena ricordare, è festa della Repubblica. Quando ero giovane questa era la festa per me più importante di quelle civili, non perché sottovalutassi il 25 aprile e così via, però la tradizione, la cultura alla quale appartenevo davano a questa scelta della Repubblica fatta dagli italiani, l'abolizione della monarchia, le terribili responsabilità storiche dei Savoia confinati per un voto democratico al passato, l'importanza fondativa più importante, più condivisa dagli italiani, molto discussa, perché in realtà oggi direbbero tutti che i risultati di quel referendum erano gravati da brogli, lo dissero già allora, oggi sarebbe una polemica ancora più terrificante con, nel mondo globalizzato dei media, però questo giorno è una scelta che tutti gli italiani hanno compiuto davvero. Il 25 aprile è un giorno che la liberazione è fatta grazie agli alleati, con una guerra civile nel nord Italia, e mentre invece nelle urne dire no al re secondo me era fondante davvero. E naturalmente non facciamo una trasmissione per ripetervi l'importanza storica di questa data, però una piccola riflessione iniziale ci stava, perché io per esempio quando mi imbattei studiando in una frase in cui il grande economista che piace alla sinistra Keynes disse che per lui la Repubblica, l'idea che coltivava lui della Repubblica, era un luogo ideale che sta a sinistra del paradiso celeste. Ecco, questa è l'idea sbagliata della Repubblica per me. Primo, perché non credo affatto che la politica debba qua costruire l'uomo nuovo di Eden in terra. Chiunque dice cose simili dimentica che l'uomo è imperfetto e abbiamo fatto le dittature nere e rosse credendo di fare l'uomo nuovo. E Keynes mi meraviglia che pensasse davvero che la Repubblica ha questo fine. A me piace un'idea di Repubblica come sta scritto poi nella Costituzione, fondata sul lavoro, e temo che in questi ultimi anni non sia per niente così, perché stiamo condannando generazioni ad avere un rapporto con il lavoro impossibile, abbiamo pregiudicato il futuro per le pensioni che non avranno, per continuare a pagarle ad altre a cui regaliamo trattamenti previdenziali, sì certo in regola con le norme che c'erano nei loro tempi, ma che non hanno alcun rapporto con quelle che negheremo a chi invece è più giovane. E questo credo che sia il problema fondamentale dell'Italia, l'ingiustizia rispetto al lavoro. E allora decidiamo, abbiamo deciso oggi di fare in questa giornata dedicata alla Repubblica, di usare non l'anniversario della fondazione della Repubblica, ma di parlare proprio di lavoro e di impresa, con un'altra storia che arriva a un anniversario, perché ieri erano 10 anni dell'avvento di Sergio Marchionne alla Fiat. E allora utilizziamo questa puntata per parlare del lavoro della Fiat, del decennale di Sergio Marchionne alla Fiat, però io la voglio dedicare questa puntata a una persona che mi è capitato di conoscere e che non c'è più. Mi è capitato di conoscerla quando ci occupavamo delle vittime della crisi, dei suicidi, e lei era impegnata in prima persona in questa campagna. Era una cassa integrata della Fiat Anola, viveva da Cerra, e di questi 10 anni di Marchionne alla Fiat, sei anni li ha passati da cassa integrata, era ancora cassa integrata. Si è accoltellata e si è uccisa la settimana scorsa, a 47 anni, si chiamava Maria Baratto, e io la saluto da dove sta, perché penso che il nostro compito sia quello, senza fare polemiche, di ricordare tutti coloro che in questi anni sono stati indotti dalla mancanza del lavoro e della disperazione a fare scelte simili. Non le voglio giustificare, non sto giustificando nessuno, né sto incolpevolizzando nessuno, tantomeno Marchionne, però la dedica è a Maria per tutto quello che ha fatto da cassa integrata, e mi dispiace che non ce l'abbia fatta alla fine, uccidendosi in quella maniera poi così terribile, con delle coltellate al ventre. È successo pochi giorni fa, e devo dirvi la verità, quando ho letto l'agenzia, avendo avuto anche a che fare con lei, insomma, seppure non potendo dire di conoscerla bene, io ho pianto, e non mi vergogno a dirlo, e non mi sembra sbagliato chiedere anche ad alcuni di voi, o a tanti mi auguro, di riflettere sui tanti che non ci sono, perché non hanno lavoro e non ce l'hanno fatta, imprenditori o lavoratori dipendenti, io li metto tutti esattamente nella stessa fila. Ora, Invece, parliamo del bilancio, per così dire, ideale, pratico, reale, al netto dei servi encomi e dei codardi oltraggi che si sprecano nei confronti di Marchionne, di questo decennio di Sergio Marchionne alla Fiat. Ed è con noi, torna a essere con noi, Marco Cobianchi, che è un giornalista di Panorama, che ha scritto un bellissimo libro. Per chi non l'avesse ancora comprato e letto, ne vale veramente la pena, perché non trovate né i servi encomi né i codardi oltraggi nei confronti di Sergio Marchionne. E il libro si intitola American Dream. Così Marchionne, sottotitolo, così Marchionne ha salvato la Chrysler e ucciso la Fiat. Grazie di essere con noi in questa festa della Repubblica, Marco Cobianchi. Grazie a te e grazie agli ascoltatori. Allora, dovessi dare una prima frase iniziale di questi 10 anni di Marchionne, tu cosa anteponi? Il grande successo di essere riuscito a traghettare un gruppo semifallito nel 2004-2008 in America e nel mondo, oppure essersi dimenticato anche dell'italianità e averci praticamente messo di fronte a una realtà? Cosa prevale dal tuo giudizio? Ma è difficile rispondere alla tua domanda. In realtà tutte e due le tue affermazioni sono corrette, ma siccome, come tu hai detto, io non sono l'agiografo di Marchionne, io mi sono concentrato sul come Marchionne è riuscito a fare ciò che ha fatto, e ha fatto cose, è inutile negarlo, cose straordinarie, no? Rispetto soprattutto al disastro che ha trovato. Ricordo che nei 2 anni precedenti sono cambiati 4-5 amministratori delegati in appena 2 anni, quindi ha fatto cose straordinarie, è riuscito a comprare la Chrysler con i soldi degli americani, una cosa che non è che si vedono tutti i giorni e secondo me non si vedrà mai più. Però quello che mi ha colpito, a parte la piaggeria che circonda la Fiat ancora oggi, perché tu hai detto bene, ancora oggi, nonostante che la Fiat sia sostanzialmente non più italiana, sia parte di una multinazionale, sarà quotata a Wall Street, eccetera, ancora oggi c'è un velo di piaggeria veramente spaventoso. In questo paese si può parlare male del Papa, del Presidente della Repubblica, di tutti i ministri, di qualsiasi istituzione, tranne che della Fiat. E questo mi ha sempre molto colpito. Così, in occasione del decennale di Marchionne alla Fiat, ho deciso di andare a vedere come è riuscito a fare tutto ciò che ha fatto. La prima risposta alla tua domanda è quindi che Marchionne non sarebbe riuscito a salvare la Fiat senza un particolare importante, cioè gli aiuti di Stato. Gli aiuti della Repubblica, ma anche della Regione e dei vari comuni in giro per l'Italia, perfino di Obama, eccetera. Il punto di caduta di questi 10 anni io lo fisso il 3 agosto del 2005. In quell'occasione presentava Marchionne il secondo piano industriale della Fiat. Siamo arrivati al nono, Vabbè, esatto, siamo arrivati al nono in 10 anni, sì. Esattamente. Nel 2005, cioè l'anno dopo il suo arrivo, era già al secondo, quindi le stampanti del lingotto non hanno mai lavorato come in questi anni. Come sì. In questi anni. Il 3 agosto del 2005, di fronte ai ministri della Repubblica, ha presentato il suo secondo piano industriale dicendo che, avanzando 5 richieste, ma scritte nere su bianco, sono ancora nero su bianco, certo. sulle slide, dicendo: cari signori, se voi non ottemperate a queste 5 richieste, io posso benissimo chiudere e andare all'estero. Aspetta, ti fermo qua perché abbiamo l'informazione stradale e le 5 richieste, 2005, un anno dopo essere arrivato allo Stato e alle autorità pubbliche, riprenderemo esattamente di qua, strada. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in questo 2 giugno a ricordare certo la scelta della Repubblica del 2 giugno, ma anche in questi duri anni di una Repubblica senza lavoro. E ne approfittiamo, perché è il decennale di Sergio Marchionne alla Fiat, per parlare con Marco Cobianchi, che è qui con noi, giornalista di Panorama. Bellissimo il suo libro, davvero vale la pena di leggerlo per capire meglio, avere tutti i dati in fila senza né encomi di troppo, servilismi che si sprecano da parte dei media nei confronti della Fiat. E il libro si intitola American Dream, così Marchionne ha salvato la Chrysler e ucciso la Fiat. Dicevi, Marco, che nel 2005, appena arrivato dopo un anno al secondo piano industriale, Marchionne mette per iscritto 5 punti di richieste alle istituzioni. Quali? Primo, rottamazione. Secondo, un acquisto straordinario da parte dello Stato di bus ecologici, ovviamente costruiti dalla Fiat. Terzo, soldi a fondo perduto. Quarto, soldi per la ricerca e sviluppo. Quinto, la vendita di un pezzo dell'area di Mirafiori. Ovviamente sono state ottemperate tutte 5 richieste immediatamente. Dopo poche settimane l'accisa sulla benzina fu aumentata proprio per trovare i soldi per comprare i bus ecologici prodotti dalla Fiat. Ora, però, fammi fare una precisazione importante. Quello che io contesto non è il fatto che Marchionne prenda soldi pubblici, io contesto il fatto che lo neghi e soprattutto che poi faccia la morale liberale a tutto il resto del mondo. Perché non si possono prendere... Marchionne si è sempre vantato, per ricordare ai nostri ascoltatori, che con lui era finita l'era della Fiat, che era inutile rimproverare gli aiuti di Stato, con lui era finita. Sì, esatto, ricordo anche una straordinaria partecipazione di Marchionne da Fabio Fazio. Fabio Fazio, con la sua nota aggressività, gli chiese: ma come mai lei non prende più aiuti di Stato? Ecco, ecco, Marchionne ha preso aiuti di Stato esattamente come prima, però quello che innervosisce è il fatto che lo nasconda, che lo neghi e che poi faccia appunto la morale liberale a tutto il resto del mondo, compresa la povera Maria che si è suicidata. Non è ovviamente, stiamo attenti, non è ovviamente colpa di qualcuno in particolare quel suicidio, però fa innervosire che noi sosteniamo le imprese che sono sostenute un po' in tutto il mondo, perché in tutto il mondo si sostengono le imprese, però non c'è questa voglia di negarlo, di prenderle di nascosto, di non dirlo. Ecco, nel 2005 invece lo disse esplicitamente, gli va dato atto almeno della chiarezza, con però un ricattuccio sottinteso, insomma, o me li dato o vado via. Ecco. E nel frattempo però si potrebbe dire che, avendoli ottenuti, non è che la parte invece del ricattuccio che riguardava l'azienda è stata ottemperata da parte dell'azienda, perché poi di fatto... No, infatti nel libro mi sono detto, la parte più divertente, per modo di dire, che ho scritto sono gli 8 piani industriali. 8 piani industriali in 9 anni, 9 piani industriali in 10, compreso quello di Detroit, e il risultato è che sono stati realizzati il 50% delle promesse che ha fatto, cioè di 64 nuovi modelli che aveva promesso ne ha realizzati 33. I famosi 400.000 Alfa Romeo è dal 2010 che li promette, ora li ha promessi al 2018, quindi insomma, Marchionne resta un grandissimo manager, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio, nessuno discute, però si può discutere del come e si può discutere anche di quanto ci è costato. Ad esempio, in questi 10 anni 1,7 miliardi sono andati in cassa integrazione, ad esempio. Poi, voglio dire, i meriti gli vanno riconosciuti, ovviamente, però mi innervosisce un po' il fatto che non si possa discutere, ecco, non si possa discutere di un'azienda che tutto sommato noi sosteniamo da quando è nata. Ricordo che del piano Marshall, siamo negli anni 40 naturalmente, la maggior fetta dei soldi del piano Marshall destinati alle imprese se l'è presa la Fiat. Ecco, insomma, la sosteniamo da sempre, almeno, adesso, almeno un grazie, no? Ora, uno dei ricorrenti temi di questi ultimi anni è stato le relazioni sindacali, le relazioni industriali. E alla fine, dovessimo giudicare col metodo e poi, io direi che la FIOM, con una concezione che io non condivido, né della rappresentanza, infatti su questo la FIOM litiga, si è visto anche al congresso della CGIL, rifiuta l'idea che la CGIL abbia firmato un accordo interconfederale nel quale si stabiliscono davvero i principi per i quali, stabiliti i criteri di rappresentanza, se poi i lavoratori votano su un contratto aziendale, io credo molto nella necessità di più contratti aziendali, poi c'è l'esigibilità piena del contratto, cioè a quel punto se ci sono dei rappresentanti sindacali che non lo rispettano sono sottoposti alle sanzioni. La FIOM non è d'accordo con questo, però si è battuta in prima fila ottenendo anche molti consensi nel dibattito pubblico, però io direi che alla fine non è che ha perso, ha straperso, e quindi Marchionne da questo punto di vista è riuscito anche ad avere una cortina fumogena, cioè quella delle relazioni industriali che non funzionavano, per rendere meno evidente il fatto che poi è avvenuto, cioè che la Fiat qua perde solo soldi in un mercato che è sempre più trascurabile, la sua sfida è altrove e di fatto è andata altrove. Tu che ne pensi di questo? Perfettamente, sono totalmente d'accordo con te. Infatti io penso che Fiat e FIOM abbiano giocato la stessa partita. FIOM, contrapponendosi alla Fiat, è emersa come il sindacato contestatario che non si piega davanti al padrone, mentre Marchionne, avendo trovato un nemico nella Fiom, perché non ha nemici la Fiat in Italia, è riuscito a far passare l'idea che se non riusciva a fare ciò che faceva era per colpa della Fiom. La realtà è quella di Pomigliano, di cui non si parla più. Il famoso referendum di Pomigliano, la Fiom votava, fece campagna contro la modifica del contratto di lavoro proposto da Marchionne. Se avessero vinto i no, cioè quindi se avesse vinto la Fiom, Marchionne diceva io chiudo Pomigliano. Bene, non soltanto la Fiom ha perso a Pomigliano, ma soprattutto oggi lavorano nella fabbrica di Pomigliano 300 persone in più rispetto a quelle che lavoravano prima del referendum. Quindi la Fiom ha fatto campagna per il no e rischiava non soltanto di far chiudere la fabbrica, ma di far perdere posti di lavoro a tutto l'indotto. E ricordiamoci che per quell'area del paese l'alternativa non è iscriversi alle liste di collocamento, ma è la camorra. È la camorra, sì. È la camorra. Tra l'altro la Fiom è stata anche in malafede gravissima, perché mentre a Pomigliano lavorava, faceva campagna elettorale per il no alle modifiche di Marchionne, faceva campagna elettorale per il sì a Grugliasco e a Mirafiori, come a dire che quelli di Pomigliano insomma sono meno importanti di Grugliasco e Mirafiori. Questo è gravissimo per un sindacato e i lavoratori lo hanno capito e li hanno puniti. Ricordo che oggi la Fiom è il quinto sindacato della Fiat, il quinto, addirittura ha meno iscritti della FISMIC addirittura del sindacato dei quadri della Fiat. E quindi qualcosa vorrà dire da questo punto di vista. Con lo spirito del poi, visto nel decennio, la politica, secondo te Marco Cobianchi, che cosa poteva o doveva fare di diverso? Doveva esigere il rispetto dei patti, questo non lo ha mai fatto. Pochi mesi prima che chiudesse Termini Imerese ancora arrivavano soldi alla Fiat per Termini Imerese, e questo non è una cosa seria. Bisogna con le imprese bisogna avere un rapporto serio e quindi chiedere che un progetto industriale venga realizzato con la compartecipazione dei soldi statali. Beh, guarda, io francamente non sono contrario a priori, perché rivedo tutti gli stati finanziano le proprie imprese, però quello al quale sono in disaccordo è che vengano dati soldi senza esigere che quei piani vengano realizzati. Se io ti do 1000 euro perché tu vada a comprare un oggetto, però quell'oggetto lo devi comprare, lo devi realizzare. Non si può usare lo Stato come un bancomat, lo Stato deve aiutare le imprese, in certi casi sì, però l'impresa deve anche essere seria. Il rapporto tra la politica e la Fiat è sempre stato quello di sudditanza. Tutti i governi di qualsiasi colore hanno sempre fatto rottamazioni, hanno sempre dato soldi alla Fiat senza chiedere nulla in cambio. Questo non è serio. Allora, al termine di questa breve riflessione di questo 2 giugno, io vi invito davvero, se perdiamo pezzi, non abbiamo per decenni aperto il mercato italiano a produzioni alternative a quelle della Fiat. Sono felice anch'io, come Marco Cobianchi, che Sergio Marchionne abbia portato un'azienda in semi-default a diventare protagonista mondiale, ma sono amareggiato di un paese in cui le classi dirigenti, la politica, i media, rimanendo in ginocchio, hanno impedito sia concorrenza e lavoro in Italia, siano rimasti anche muti di fronte al fatto che la Fiat continuava a prendere, ma non rispettava quello in base al quale aveva chiesto. E questa è la nostra riflessione del buon 2 giugno a tutti. E leggete il libro di Marco Cobianchi, American Dream, così Marchionne ha salvato la Chrysler, ucciso la Fiat. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.